Viltrode è stata una misura che ha preso tutta la regione, direi, di Bruxelles capitale, però Bruxelles capitale è suddivisa in diversi comuni, vuol dire dei macro quartieri che hanno le diciamo, prerogative, i poteri dei comuni italiani, tra i quali un grande margine di manovra per quanto riguarda la viabilità. Cosa è successo negli ultimi anni? È successo che in alcuni di questi quartieri, quello dove vivo io, Ixelles, ma Uccle, penso anche Bruxelles Mil, che è proprio il centro storico, hanno vinto dei partiti verdi o appartenenti, diciamo, alla sinistra ambientalista, o comunque che guardano in quella direzione lì, che hanno implementato delle policy di disincentivo dell'utilizzo delle vetture molto importanti, la policy della chiocciola, per cui ti rendono molto complicato circolare in macchina all'interno del quartiere con una rete di sensi unici, logici, che farebbero passare la voglia a chiunque di prendere la macchina, con la pavimentazione in sottolato di alcune strade, per la chiusura al traffico, sono i taxi, agli autobus di altre vie. Quindi sono state in alcuni quartieri delle misure di questo genere sono state implementate in parallelo a Viltrode. Di conseguenza, quando ascolti Bruxelles Mobilité, che è l'agenzia di Bruxelles Capitale che si occupa della mobilità, parlare, fare valutazioni di Viltrode, come sono andati questi primi 3 anni di traffico a treno, ti dicono che c'è stata una riduzione notevolissima del numero di incidenti, noise pollution, non so come si chiama in italiano, cioè inquinamento acustico, è diminuito tantissimo, l'inquinamento l'altro pure, quindi siamo tutti contenti. Detto ciò, io vivo in un quartiere che però l'amministrazione comunale, come dicevo prima, ha messo in atto un sacco di politiche ambientali negli stessi anni. Io trovo che sia molto difficile determinare se c'è stato un decremento dell'inquinamento acustico a X, se questo sia dipeso da Viltrode, dal limite dei 30 km all'ora, oppure dal fatto che ormai che una serie di strade siano state chiuse al traffico e che si è creato una rete di sensi unici che non fa più prendere la macchina a nessuno. Stessa cosa, secondo me, in altri quartieri del municipio. Diciamo, l'agenzia che se ne occupa ha salutato questa policy come una policy di grande successo. Secondo me questa fa parte di una serie di misure che sono state prese negli ultimi anni di disincentivo all'uso della macchina, di trasformazione di Bruxelles in una città più verde, e ce n'era grande bisogno, perché fino a 2020 era una città molto trafficata anche in centro, e tutto questo pacchetto di misure sta avendo successo, però va preso un po' insieme, ecco, difficile tracciare rapporti causalità diretta tra una policy e un outcome. Più l'outcome del fatto che Bruxelles sia una città dove circolano forse un po' meno macchine di prima, si sta un po' meglio e un po' meno casino, secondo me dipende da tutta una serie di misure, non soltanto al limite dei 30. Viene fatta rispettare, direi di sì. Tant'è vero che una delle critiche che io ho sentito sollevare di più è che sia molto facile prendere multe, perché è molto facile trovarsi in dei tratti di strada con cioè lasciare gli assi in cui è stato preservato il limite dei 50 senza accorgersene, rientrare in zona con il limite dei 30, senza che sia propriamente segnalato, senza che ci sia una discontinuità dal punto di vista strutturale carreggiata. Però ecco, il tratto 50 è finito, sei rientrato nella zona 30 e prendi una multa per il tendenzialmente autovelox. La critica, cospirativa o no, non posso dirtelo con certezza, è che la VIA di Bruxelles lucri su questa confusione dei guidatori.